Bentornati e bentornate a Pillole di Ecologia, questa è Radio ZM, io sono Cesa One, con me c'è il buon Dave come al solito. Bella raga! Per la prima volta live, anzi per la seconda volta, ma per la prima volta live and direct dal cellulare e quindi da Copenaghen, yeah. Siamo in diretta. Quindi se esatto, qualcuno tutti in diretta. Se qualcuno volesse scrivere, noi rispondiamo sperando di non fare come l'ultima volta che abbiamo sfanculato tutto MixXX, ma sarò super attento a non farlo. E niente, la puntata di oggi è un po' la puntata delle coincidenze praticamente, perché è l'ultimo mercoledì del mese, ma è anche l'ultimo giorno del mese. Incredibile, già questo succede tipo ogni 100.000 anni. Esatto, solito, sì, è tipo un'era glaciale più o meno. Esatto. Una cosa così. Allora, l'argomento di oggi è un argomento che in alcune puntate scorse era già stato affrontato, però diciamo di sbieco, che è quello delle dighe. Se n'era parlato di sbieco quando si parlava dell'acqua in pianura padana, le dighe in nord Italia, sud Italia, queste robe qua. Oggi però città, sì, è vero. Andiamo proprio, diciamo, in affondo. Ma prima, come stai, Dave? Io sto bene, grazie. Oggi mi sono preso un sacco di pioggia, ma adesso sono asciutto, ecco. Perché aggiorniamo i nostri affezionati e le nostre affezionate. Dave ha iniziato il suo nuovo super lavoro, il suo master in management ambientale a Copenaghen. Prima di chiederti sì, brevemente com'è, esatto, il dottorato, ti dico come me lo immagino io. Io me lo immagino un po' un mix tra Bear Grylls e tipo 007 e Sheldon Cooper, più o meno. Un mix tra questi tre tipologie di lavoro. Com'è? A me piace un sacco. È molto... Cioè, ok, dovrò stare tanto nella natura, però non è una natura selvaggia come in Italia. Sono boschi molto, molto tra. Ok. E dovrò fare un sacco di identificazioni di piante, quindi diventerò fortissimo a riconoscerle. La solita vecchia routine di un naturalista, insomma. Sì, ci sta. Puoi fare un bel po' di analisi di statistica. Ci sta, ma magari avremo occasione in una puntata in cui ci racconterai più nel dettaglio. Non volevo bloccare il tuo discorso, ma dobbiamo parlare di cose che effettivamente bloccano o impediscono il passaggio dell'acqua, che sono le dighe. Il corso dell'acqua, sì. Il corso dell'acqua, esatto. Quello che so io delle dighe, su come funzionano, eccetera, eccetera, deriva da il mio libro di tecnica, anzi di tecnologia delle medie. È vero. Cioè, fissato in testa l'immagine del libro, dove c'è tipo la diga in alto sulla montagna con l'aghetto, i tubazzoni che scendono, sotto ci sono le turbine e magicamente si crea l'energia. Questo è come ce l'ho in mente io. Che dire, questo è quello che mi ricordo io. Vediamo un po' nel dettaglio. Anzi, prima ti chiedo: praticamente così. Sì, ti chiedo, Dave, come è stato il periodo della tua scuola media? Così, la mia scuola media è stato strano. Non ho tanti ricordi della scuola media, era un sacco di pressione sociale, ansia sociale, ma anche poco studiare, tantissimo giocare a Pokémon sul Game Boy. Strano, un periodo strano, però mi ricordo sì, appunto, le ore di tecnica. Sì, vabbè, per me tecnica, è stato un periodo orribile della mia vita, ma penso che sia riconosciuto, tipo l'OMS, oltre a riconoscere la validità dei vaccini, ha riconosciuto a livello mondiale che la scuola media è il periodo più brutto della vita delle persone. E nuoce alla psiche di tutti. Sì, magari rafforza e fortifica, però tendenzialmente. Va bene, torniamo alle nostre dighe. Quindi, cosa c'è di vero dell'immagine del libro di tecnologia delle medie? Tutto. Alla fine la diga è una... In primo luogo, io non sono un ingegnere, quindi so quello che sono riuscito a leggere su Wikipedia, quello che mi ricordo da educazione tecnica alle medie. Vabbè, comunque. Però sì, di base Wikipedia, di base una diga è sì, uno sbarramento artificiale del corso di un fiume, che quindi crea un lago artificiale. E il modo in cui funziona, cioè la diga viene fatta in modo che aprendo i bocchettoni, i rubinettoni della diga e facendo scorrere l'acqua, quest'acqua sbatte contro una turbina e girando produce energia. Easy. Ok, quindi sostanzialmente l'acqua che dall'alto scende verso il basso prende velocità, la turbina gira e puff, magicamente si crea energia. Esatto, più l'acqua parte dall'alto, più energia accumula e più fa girare veloce la turbina e quindi le dighe vengono tendenzialmente costruite, cioè un certo tipo di diga viene costruito tendenzialmente in cima alle montagne e appunto la turbina... come funziona? Gira e c'è un sistema di resistenze elettriche. Probabilmente Yax lo saprebbe spiegare molto meglio. Sì. C'è un sistema di resistenze elettriche che fa muovere le cariche e crea una corrente. Ok. Ecco. Okay. Detta così in modo molto poco tecnico. Ok, guardando lo schermo del nostro R2D2, sembra apparentemente che si sia impallato MixXX. se ci fosse qualcuno o qualcuna che ci ascolta da casa e ci dice se si sente tutto oppure se è sfanculato, bella lì, se ci scriverà vuol dire che starà sentendo. Se è proprio bloccato tutto, vediamo un po'. Noi posso provare anch'io. Vabbè, vabbè, insomma, vediamo, male che vada, ricominciamo da capo dopo. Vabbè, quindi ricominciamo da capo. No, sta funzionando. Sta funzionando. Perfetto. Ho sentito la mia voce cristallina in quel ritardo di qualche secondo dal tuo telefono. Esatto. Tutto fantastico. Esatto. Quindi abbiamo detto come funzionano. Quindi diciamo sostanzialmente dove c'è un fiume c'è una diga. Ci può essere una diga. Ci può essere una diga. E hanno anche una duplice funzione in realtà, perché quando hai un lago hai anche quindi una riserva di acqua. Certo. Cioè, quando vuoi, se ti manca l'acqua a valle di questo lago, di questa diga, tu apri i rubinettoni e dai più acqua alla valle. Ok. E peraltro scopriremo che questo genera un sacco di controversie, perché appunto uno può decidere di dare o meno acqua e certo. In base a quanta acqua decide di dare ci sono delle conseguenze sulla valle, perché di fatto assumi il controllo totale dell'idrologia della valle dove metti la diga, salvo la pioggia che cade proprio a valle. Certo. Quindi cioè, ci sono conseguenze importanti nel mettere una diga. Certo, e come dire, visto che noi non siamo ambientalisti da salotto e non facciamo soltanto chiacchiere e divanetti, sappiamo che, perché molte, diciamo, molto spesso si criticano anche la costruzione di dighe, perché appunto oggettivamente ha una potenzialità di distruggere ecosistemi esagerata, perché appunto il pesciolino che dalla fonte alla foce potrebbe muoversi avanti e indietro, se c'è una diga in mezzo non lo può più fare. Adesso è l'esempio più idiota che potevo fare, però no, ma è verissimo, cioè un sacco di specie non riescono a raggiungere magari le zone dove prima facevano le uova, se pensi tipo alle trote o magari ai salmoni o le anguille. Salmoni e anguille appunto sono pesci che risalgono un po' il percorso dei fiumi per arrivare in zone dove poi fanno le uova, e questi non sono capaci, se c'è una diga in mezzo, cioè è una muraglia alta 250 metri, tu sei un pesce, che cazzo fai? Però dall'altra parte sono forse uno dei metodi più eco, cioè più clean di produrre energia. Esatto, cioè appunto quando fai una diga c'hai da un lato l'impatto ambientale, quindi il fatto che il fiume non ha più un regime naturale e che quello che viene sommerso dal lago, se sono ecosistemi terrestri, spariscono completamente, e appunto queste dinamiche qua, e ovviamente anche un impatto paesaggistico, perché insomma magari uno c'ha un momento in cui è emozionato a vedere un muro di cemento così grosso, però subito dopo dici vabbè che merda, preferivo vedere una valle. Sì, però stavo pensando, non esisterebbero personaggi che hanno conquistato i nostri cuori come Wolverine se non ci fossero le dighe, che sappiamo è stato rinchiuso in un laboratorio alla base di una diga dove gli hanno pimpato l'adamantio nelle ossa. Esatto, e come quindi si evince dalla filmografia degli X-Men. Esatto. E tuttavia, appunto, quindi hanno tutta una serie di aspetti negativi, oltre al rischio che è collegato a se la diga si rompe, perché c'hai un lago intero che si sversa a valle, e di questo parleremo più tardi. Tuttavia le dighe quando scaricano acqua non producono un grammo di CO2 quando lo fanno, e quindi è il modo più ecologico e anche uno dei modi più efficaci che abbiamo di produrre energia. Infatti per esempio il boom economico della Nord Italia è stato in buona parte alimentato dall'energia prodotta da dighe che c'erano nelle Alpi Prealpi. Sì. E sì, quindi che... possono produrre in modo anche... No, quindi dico, possono produrre in modo, cioè molto facilmente, una quantità spropositata di energia che, se dovessimo usare i combustibili fossili per produrre, sarebbe un bello sbatti. Esatto. Quindi un'energia estremamente verde. Sì. E poi d'altra parte hai anche una riserva di acqua nel caso, appunto, magari c'è il cambiamento climatico, c'è i periodi di siccità imprevedibili. Tu a quel punto c'hai una riserva d'acqua che ti salva la, sì, ti salva la pelle, no? Sì, poi diciamo periodi di siccità o viceversa bombe d'acqua devastanti che senza una diga che la blocca quell'acqua lì scorre e diciamo viene tra virgolette persa. Esatto. E non riutilizzabile in futuro, invece con una diga. Esatto, insomma. Infatti è vero. Infatti ci sono anche degli altri tipi di sbarramento dei fiumi che vengono creati appunto per contrastare questi eventi di alluvione, perché cioè se non lo fermano completamente, perlomeno rallentano il corso del fiume, quindi rallentano nel sì, caso la distruzione che causerebbe. Ci sono, diciamo, beh, nel mondo ci sono proprio per queste potenzialità un'infinità di dighe grandi, piccole, in tutti i continenti, penso tranne l'Antartide, però penso che in tutti gli altri ci siano delle dighe di vario genere. Sì, anch'io. Tra l'altro vedremo dopo, non soltanto per bloccare il corso di un fiume sono state costruite dighe. Esatto, ma per arginare anche altre cose. Esatto, come ad esempio la barbarie. No, questa è una stronzata, però diciamo tra le dighe di non dimensioni colossali ce n'è una pirati che viene ricordata negli annali del socialismo regale del re Muschio, che è la diga di Mario Molotov. Esatto. Mario Molotov, personaggio leggendario che diciamo nel nord-ovest della pianura padana riecheggia per le valli. Tra l'altro Dave, tu eri presente il giorno in cui è stata eretta, sì, la diga di Mario Molotov. Quel giorno, beh, è un giorno che secondo me sarà nei sussidiari dei bambini. Sì, tra nei sussidi e nei diari decenni dei bambini. Esatto. Sì, quella volta è stata proprio, diciamo, la necessità che poi ha dato forza all'azione collettiva di costruzione, è nata da una bomba d'acqua che esatto, ha sostanzialmente, contestualizziamo un attimo, ci troviamo in Val di Susa. Esatto, raccontiamo bene tutta la storia. Ci troviamo in Val di Susa, vai. Ci troviamo al campeggio Notav a Venaus, quindi distesa di tende come i buoni vecchi accampamenti degli eserciti nell'antichità, e niente, ognuno chiuso nella sua tenda per fare quello che sta facendo, perché appunto sta piovigginando. A un certo punto ci si rende conto che la situazione si fa più umida ogni secondo che passa, perché sì, certo, esatto, inizia a piovere tanto, ma si crea proprio un torrente, un fiume in piena per tutto il campeggio. Cos'era successo? Esatto. Si era sfondato l'argine di un torrente che passava di fianco al campeggio. Allora, sì, male e quindi lingue... c'era un allagamento. Esatto. Male lingue dicono, male lingue dicono che questo allagamento è stato dovuto a una lamiera rimossa da un gruppo di campeggiatori romani che per creare la loro postazione avevano tolto questa lamiera che era parte integrante dell'argine del fiume. Fatto sta, ah, pensa te. Sì, male lingue, però sai, nelle leggende non si sa bene poi tutti i retroscena. Certo, certo. Fatto sta che a un certo punto, certo, ci troviamo invasi da questo, da questa mole esagerata di acqua. E quindi sembrava piovesse talmente tanto che l'acqua, oltre che da sopra, arrivasse anche da sotto. No? E anche da destra e sinistra. Esatto, eravamo soverchiati da, distese di acqua. A un certo punto, quindi, diciamo, prese dallo sconforto, alziamo la testa e vediamo questa bandiera rossa della 150esima armata dell'Armata Rossa che sventola sopra di noi, impavida e non curante dell'acqua. Quindi ci buttiamo a cercare di ricostruire questa diga, ovviamente con i mezzi di fortuna che avevamo: bastoni, pietre, rovi, rami. E al grido di "Like a Beaver" del buon Fergie creiamo questa gloriosa, piccola ma gloriosa diga. Che, esatto, che ha fatto il suo lavoro. Sì. Ha salvato l'evento intero. Sì, ha salvato l'evento intero e l'unica energia che ha creato è stata quella nei nostri animi, che sono stati indomiti, si dice. Boh, comunque pieni di energia e di entusiasmo per il resto della vacanza in campeggio. Indomiti e asciutti. Indomiti e asciutti, bravo, qui ti volevo. Allora, dicevamo che era la puntata delle coincidenze. Coincidenza vuole che oggi sarebbe dovuto uscire un EP della Rat Caverna Posse, composto e registrato alla Rat Caverna, con beat e testi del sottoscritto e del buon Tom Melmo, con featuring strabilianti. E questo EP si chiama proprio The Mario Molotov Saga Volume 1. Quindi direi che la colonna sonora e quindi le canzoni che ci sentiremo nel corso di questa puntata saranno estratti di questo EP. Ho detto che sarebbe dovuto uscire perché Spotify sembra boicottare la leggenda, e quindi non ci ha fatto uscire l'EP che doveva uscire oggi. E quindi mandiamo la prima traccia del progetto, che non è proprio la prima traccia, ma è la prima che manderemo oggi. È la traccia in cui ci sono uno dei due featuring del disco. Il featuring è di Yax. La traccia si chiama Zona Jolla, in onore del periodo di restrizioni che abbiamo vissuto e che speriamo, adesso tocchiamoci i genitali di ogni forma e dimensione, speriamo di non dover più vivere. Quindi ci sentiamo Zona Jolla, Rap Caverna Posse, super anteprima solo su Radio ZM, solo a Pillole di Ecologia, e poi ci rivediamo qui parlando di altre dighe. Bomba. Muoviamo sui rami, fumiamo grammi di asci, cervelli gravidi anche in questi tempi selvaggi, mettendo pietre e bastoni tra gli ingranaggi. È la legge dell'uomo contro la legge del mondo, non confondo il diritto con il suo resoconto. Nemico solamente dei miei predatori, resto fuori negli stagni con gli alligatori. In sta giungla di cemento non mi sento a mio agio, sono in fuga fino a sera già dal primo raggio, come se fossi un qualche tipo di animale selvaggio, col campione più potente rompi bacio. Siamo ritornati come Lula o la K, facendo propaganda in banda doppio H, per chi viene sfruttata e per chi viene sfruttato, da un padrone, dal mercato, da un marito frustrato. Non mi sono prostrato, mi sono spostato, posso cambiare il mio stato, ma non cambiare il mio stato. Non cambio opinione pure se cambio regione, voi ci avete tutto il resto, noi ci abbiamo ragione. Questo mondo fa foschi, comandano i loschi, mentre quelli come noi stanno nascosti nei boschi. Per ormai Sam Key c'è poco da fare, le mie puma sono rotte pur bisogna andare. Sempre a cor, sempre grezzo, sta roba è sa fine che mezzo. Ho un suono che cambia pur restando se stesso, giungla urbana in cui cerco un senso. Sempre a cor, sempre grezzo, sta roba è sa fine che mezzo. Ho un suono che cambia pur restando se stesso, giungla urbana in cui cerco un senso. Usciamo dai, ti presento i miei amici. Sono scialli per tutto quello che dici. Disinteressati fin nelle radici, come chi cambia i mobili negli uffici. Devo attestare, ho avuto voglia di far fatica. Se arrivo negli incroci in modalità figa, se butto via il PC vecchio perché sti cazzo. Se un ganese sa tutto quanto della mia vita, non è che non te lo dico perché è personale. Qui l'accesso è riservato al personale. La mia anima è dietro una barriera mobile, dovrebbe avere un'etichetta sempre ben visibile. Tipo rischio, ustione, usare i camici. Nella vita nuocio agli organismi acquatici. Non voglio scampo, frate, voglio una carezza. Un giorno nella city 10 tonnellate di munnezza. Sempre accorto, sempre grezzo, sta roba è sapile che mezzo. Ho un suono che cambia pur restando se stesso. Giungla urbana in cui cerco un senso. Sempre accorto, sempre grezzo, sta roba è sapile che mezzo. Ho un suono che cambia pur restando se stesso. Giungla urbana in cui cerco un senso. Yeah, Cesa One, scrive il tempo passa. Cambia tutto e questo resta. Beat rullante cassa sempre in testa. Ci scarico lo stress ogni volta che si ammassa. Sempre mille sbatti, sempre mille affanni. Come crudo lavo, cucino e stendo i panni. Routine e consuetudini non riescono a bastarmi. Le tue vestiti su misura che nascondono bastardi. Sempre con la testa altrove, sempre malfidente con persone nuove. Sembra un videogame con livelli e prove. Fare il rap finché ce n'è, su questo non ci piove. RCP, zona jolla. La differenza tra chi parla e chi se la colla. Questa giungla impone perfezione, un risultato. Quindi fare schifo è un atto rivoluzionario. Sempre accorto, sempre grezzo. Sta roba è sapile che mezzo. Ho un suono che cambia pur restando se stesso. Giungla urbana in cui cerco un senso. Sempre hardcore, sempre grezzo. Sta roba è sia fine che mezzo. Ho un suono che cambia pur restando se stesso. Giungla urbana in cui cerco un senso. Su questi potentissimi scratch del buon Kiko, a.k.a. Mr. Mancino, a.k.a. DJ Fang, torniamo a pillole di ecologia e torniamo a parlare delle nostre buone dighe. Abbiamo parlato di dighe gloriose, non per la dimensione, ma per la storia che ci sta dietro, come quella appunto del buon Mario Molotov. Arriviamo a parlare invece di dighe gloriose per la dimensione nel mondo. Esatto, e l'impatto su nazioni intere. Esatto, addirittura che più nazioni. Esatto. Diciamo in generale. Dighe multinazionali. Esatto, dighe multinazionali. Diciamo in generale, se tu sei un pesce d'acqua dolce che vive nei fiumi, ti conviene nascere in un fiume piccolo piuttosto che in un grande fiume, perché tendenzialmente nel mondo, se dove c'è un grande fiume, ci hanno costruito almeno una diga enorme. Esatto. Diciamo così. Esatto, in ogni continente proprio. Esatto. Cioè, ovunque ci sia un fiume grosso, c'è almeno una diga. E poi ci sono fiumi che ne hanno anche più di una. Esatto. E che sono stati proprio snaturati. E diciamo che per quello che dicevi prima, Dave, più diciamo il paese è situato in alto, quindi vicino alla foce del fiume, no, alla sorgente del fiume, più diciamo tiene in scacco gli altri paesi che stanno sotto. Esatto. È un esempio. Esatto. Questo è il problema di quando i fiumi passano per più stati. Sì. Diciamo l'esempio più emblematico forse è quello del Nilo. Sia perché appunto è un fiume interminabile che attraversa tantissimi paesi diversi, Etiopia, Egitto, Sudan e sicuramente anche degli altri, Tanzania, Kenya, Uganda. E comunque ne attraversa tantissimi, no? E l'Egitto, che è diciamo uno dei più grandi paesi attraversato dal Nilo, diciamo, sia storicamente influenzato anche dalla presenza di questo fiume, la civiltà egizia, eccetera, eccetera, sia per la sua sopravvivenza. È stato il primo paese che ha costruito una grossa diga sul Nilo. Esatto, ed è anche l'ultimo paese che il Nilo attraversa. Sì. E quindi sono anche quelli che più di tutti vengono, vengono influenzati da quello che viene fatto a monte rispetto a loro. E comunque il Nilo è stato il Nilo, l'Egitto. Sì, sono loro che hanno costruito una delle dighe più grosse sul Nilo, e nel farlo hanno uno degli impatti di questa diga è che hanno bloccato il fenomeno delle piene del Nilo. Un'altra di quelle cose che abbiamo studiato alle medie, sì, nel sussidiario. Madonna mia, guarda, questo revival di cose utili e belle delle medie mi quasi mi commuove. Sì, oltre a essere bullati, tipo gli smutandamenti o le mosse di wrestling durante ginnastica, ci sono anche delle cose utili, come Piene del Nilo, che appunto cospargendo i campi degli antichi egizi con il limo fertilissimo, appunto fertilizzava e permetteva l'agricoltura lungo tutta la valle del Nilo. Un'agricoltura che forse era anche più produttiva di quanto fosse oggi. In effetti, tra diciamo gli effetti collaterali che probabilmente o non avevano calcolato oppure non hanno voluto vedere, chi lo sa, dovremmo chiedere agli egiziani degli anni 60 quando è stata costruita la diga. Inizia proprio nel 1960 la diga di Aswan. Comunque non avevano calcolato probabilmente che bloccare il corso del Nilo voleva dire anche bloccare le inondazioni e lo spargimento del limo sui campi. Esatto. E appunto ci sono state tutta una serie di problematiche ambientali che sono sorte dopo la costruzione di questa diga. Cioè, nel senso, hanno guadagnato un sacco perché hanno una capacità di produzione di energia enorme di 2 gigawatt, che non lo so a memoria, lo sto leggendo Wikipedia, è più della metà dell'energia necessaria all'Egitto. Quindi diciamo, quindi, ha dei metà bei dell'energia benefici. Ce l'hanno con una sola diga, sti cazzi. Sì. Però permise a quasi tutti gli egiziani di avere per la prima volta una connessione elettrica, quindi ha fatto veramente la differenza per il paese. Tuttavia ha avuto un costo non indifferente questa cosa, perché a monte rispetto alla diga il Nilo sta sedimentando un sacco, quindi sta praticamente, se tu rallenti il corso di un fiume, il fiume, non avendo più abbastanza velocità, non ha abbastanza energia da mantenere in sospensione il sedimento che trasporta. E quindi deposita un sacco di materiale. Esatto, e quindi peraltro anche il bacino della diga, il bacino stesso diminuisce di dimensioni nel corso dei decenni. Sì. Contemporaneamente a valle della diga aumenta l'erosione, e questo non so perché, sarà forse perché il livello del fiume è più basso, e quindi sinceramente non lo so. Mi informerò, lo saprò dire alla prossima puntata. E poi sono scomparse specie che migravano appunto lungo il corso del Nilo. Sì, cioè sostanzialmente diciamo per gli egiziani ha dato dei vantaggi innegabili, tipo avere l'energia elettrica in casa, che prima non avevano. Esatto. Però dall'altra parte ci sono un sacco di controindicazioni, cioè il fatto che il limo non si depositi più costringe a utilizzare dei fertilizzanti chimici per rendere altrettanto fertile, esatto, e produttiva la terra. Esatto, che poi appunto vanno a inquinare il resto del Nilo. Poi una cosa qua interessante è che praticamente fermando i sedimenti del Nilo, tutto il famoso delta del Nilo, di questa zona un po' come il delta del Po, ma grosso 10 volte, 100 volte di più, ed è una zona fertilissima. Questa zona non riceve più un apporto continuo di sedimenti, e quindi nel tempo verrà mangiata dal mare, verrà erosa dal mare. E, okay. E tutta la produttività e la pescosità di tutto il fiume a valle rispetto a questa diga è diminuita, e diminuendo la potenza del fiume in arrivo verso il mare, l'acqua del mare, che è anche un'acqua del male perché è salata, certo, riesce a risalire lungo la valle di più e aumenta tutta la salinità di questo tratto del fiume, e quindi permette a specie del mare di invadere il fiume, diminuisce ulteriormente la pescosità, che, insomma, crea un sacco di problemi. E insomma, sì, c'è un bello sbattimento. Poi, certo, nel lago che si è creato, che si chiama Lago Nasser, in onore... vediamo se mi ricordo bene. Penso che sia in onore del... Esatto, del ex presidente dell'Egitto che ha, diciamo, fatto la rivoluzione che ha portato poi l'Egitto a nazionalizzare il canale di Suez, eccetera, eccetera. Vabbè, questo lago si chiama Lago Nasser, e nel lago, dice, cioè, si è creata un'industria della pesca, comunque si pesca bene in quel lago lì. Quindi poi comunque c'è a disposizione paradossalmente più acqua nei periodi delle piene, e quindi si riesce a irrigare più parte di deserto, che quindi è più produttivo. Cioè, sono anche dei benefici anche economici, diciamo, però è stato indubbiamente un disastro ambientale. Interessante, rispetto a questa diga, che comunque, diciamo, è tutta all'interno dell'Egitto, no? Cioè è nella parte del Nilo compresa nel territorio egiziano, e quindi le conseguenze si hanno tutte all'interno del paese egiziano. C'è un'altra diga, esatto, che è in costruzione orora, che invece, essendo nell'Alto Nilo, coinvolge tanti paesi diversi, che è una diga che stanno costruendo in Etiopia, che sarà più o meno della stessa portata, forse addirittura no, più grossa, e che produrrà più potenza rispetto a questa, che, diciamo, è molto importante per gli etiopi, perché appunto permette di avere a disposizione un sacco di acqua, di fare energia per chiunque, però appunto coinvolge tre paesi diversi, che sono Etiopia, Egitto e Sudan, che soprattutto l'Egitto e il Sudan se la collano un po', cioè se la soffrono un po' la costruzione di questa diga, appunto perché cioè, si ridurrà ulteriormente la portata del fiume, e quindi la disponibilità di acqua per gli altri due paesi. Esatto, perché praticamente l'Etiopia è stata furba, nel senso, ha messo la diga esattamente o quasi sul confine col Sudan. Sì. E quindi l'Etiopia non riceve nessuno dei problemi legati alla diga, perché quelli vengono tutti dati al Sudan, però ottiene un lago in più, che per un paese che ha problemi con l'acqua non fa certo male, e questa produzione enorme di energia produrrà 6 gigawatt e mezzo, quindi il triplo rispetto a quella che dà metà dell'energia. Sì, è una roba esagerata. Quindi puoi alimentare un Egitto e mezzo. E quindi il Sudan avrà quindi con questa l'Etiopia avrà, da un lato, una produzione enorme di energia che potrà anche vendere al Sudan e all'Egitto e agli altri paesi limitrofi. Sì. Ma d'altra parte avrà anche il controllo quasi totale di quanta acqua arriva ai paesi, al Sudan e all'Egitto. Sì. Ah, guarda, per questo c'è una controversia. Prima siamo stati molto parchi nella quantità di paesi che sono lambiti dalle coste del Nilo. Ci sono anche Burundi, Ruanda, Tanzania, Uganda, Eritrea e Kenya, oltre a Sudan, Egitto ed Etiopia. Quindi, diciamo, è un, sì, veramente un fiume infinito. Beh, il fiume più lungo. Sì. Però questi paesi qui, che hai detto, sono tutti a sì, monte. Sì, sono tutti a monte, tranne appunto Sudan ed Egitto. Sì. Sì. Però appunto con le linee elettriche questa diga riuscirebbe a mandare energia a diversi paesi. Power distribution magari lo dice. Sì, diciamo, diciamo che comunque quando ci sono dei beni primari in gioco è molto facile poi che si scatenino delle guerre, dei conflitti comunque. Cioè, se tu togli l'acqua, sì, a una popolazione, oppure se quella quantità di acqua serve a più persone di quelle che possono permettersi di usarla, inevitabilmente creerà dei conflitti. E questi tre paesi stanno, in particolare l'Egitto, sta cercando di tenere fuori da questo conflitto, da questo negoziato, gli Stati Uniti, l'ONU, l'Unione Europea, la Banca Mondiale, dire no, ce lo gestiamo soltanto noi all'interno dell'Unione Africana. E vabbè, vedremo un po' nei prossimi anni cosa succederà. Sì, sarà una bella, è un bello sbatti politico. Sì. No, decisamente non da poco. Questo... Qui dice che quando staranno riempiendo il lago, perché appunto tu costruisci un muro, ma poi ci vogliono mesi se non anni per riempire completamente il bacino della diga. E mentre lo riempiono, il Nilo a valle rispetto alla diga perderà fino al 25% della sua acqua, quindi avrai tre quarti dell'acqua che c'era prima. E quindi, cioè, quando parli di tre quarti dell'acqua, cioè quando parli di togliere un quarto dell'acqua trasportata dal Nilo, è una quantità d'acqua enorme, esorbitante. Infatti sì. Beh, qui, diciamo, sarà duro. Sì, diciamo, possiamo fare una riflessione che quando si parla di energia pulita bisogna poi vedere in che contesti e con che dinamiche viene prodotta, perché ad esempio questa energia pulita della diga in questione potrebbe essere sporcata da le migliaia di persone che avranno meno disponibilità di acqua, piuttosto che se ci saranno conflitti eccetera, che subiranno sofferenze, catastrofi, morte, guerre, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, appunto, gli ambientalisti da salotto che parlano di energia pulita a tutti i costi, eccetera, eccetera, questo è un ottimo esempio di come non è che in sé per sé è una cosa positiva, ma appunto bisogna vedere in che contesto viene inserita tutta la faccenda. Esatto. Diciamo così. Esattamente. Questo è solo per quanto riguarda il Nilo comunque, poi di grandi fiumi ce ne sono una cifra in giro per il mondo. Infatti adesso stavo guardando quest'altra diga in Cina, appunto questa diga mega gigante in Etiopia avrà 6 gigawatt, questa diga che c'è in Cina, che è già attiva, produce 22 gigawatt. Sì, tra l'altro una cosa interessante, una cosa interessante è che ovviamente ha creato un lago enorme, tanto grande, esatto, che hanno fatto dei calcoli per cui la mole di acqua raccolta in questo lago rallenterà il moto della Terra di una frazione infinitesimale di secondi. Però ci saranno i giorni che dureranno tipo 0,6 secondi in più, solo perché ci sarà una mole d'acqua enorme raccolta in questo bacino. E quindi, pazzesco, vabbè, questo è interessante. Però per la Cina ci sta, perché la Cina produce un sacco della sua energia col carbone, neanche con combustibili fossili un po' più decenti, ormai così. E quindi hanno calcolato che tra il 2003 e il 2007, quando la diga non era neanche al massimo della sua potenza, hanno risparmiato 84 milioni di tonnellate di carbone, di bruciare. Non è male. E quindi... Per quello ci sta, appunto, se consideri che la diga, che la Cina emette così tanta CO2, se non avesse questi 22 gigawatt di energia quasi più o meno gratis dal punto di vista della CO2, sì, appunto, produrrebbe molta molta più inquinamento. Però appunto anche qui c'hanno un sacco di problemi. Ci sono appunto... Sì. sono un sacco di frane. Beh, un po' di sbattimenti, diciamo. Facciamo un altro momento revival per la storia del socialismo. Prima abbiamo parlato della diga di Mario Molotov. C'è un'altra diga che ha contribuito all'elettrificazione dell'Unione Sovietica e in generale delle repubbliche sovietiche, che è una diga di Dnepr. Mi scuseranno gli ascoltatori e le ascoltatrici di lingua ucraina che ci stanno ascoltando per la pronuncia, che è stata costruita, è stata per un sacco, forse tuttora è la diga più grossa d'Europa, ed è stata costruita durante il primo piano quinquennale in Unione Sovietica, voluta fortemente da Lenin appunto per l'elettrificazione del paese, e in particolare nel 27 è stata costruita. Fino a poco tempo fa c'era anche una gloriosissima statua di Lenin che torreggiava di fianco a questa diga, che poi è stata rimossa. È interessante perché già ben prima della Seconda Guerra Mondiale forniva energia elettrica sia alle industrie sovietiche sia alla popolazione sovietica in grande quantità. Interessante che durante la Seconda Guerra Mondiale questa diga è stata distrutta in parte dalla stessa Unione Sovietica per rallentare l'avanzata dei nazisti, perché appunto distruggendo la diga veniva allagato la parte a valle del fiume e quindi rendeva più difficoltoso l'attraversamento di quel territorio. Diciamo, non va proprio a loro gloria che centinaia di migliaia di persone sono morte in seguito all'allagamento, però gli stessi nazisti hanno detto la volontà di Stalin di fare terra bruciata nel mentre che l'esercito tedesco avanza è così forte da distruggere un po' il simbolo della forza del socialismo in quel tempo, no? Come dire, non soltanto gli Stati Uniti o il capitalismo riesce a costruire cose del genere, ma anche il socialismo. E poi vabbè, dopo la Seconda Guerra Mondiale è stata ricostruita. Peso. Sì, infatti, peraltro questa ondata prodotta dalla distruzione della diga uccise anche un sacco di civili ucraini. Sì, sì. E poi la diga venne rifatta saltare dai tedeschi durante la loro ritirata. Sì, poi venne ricostruita ed è tuttora in funzione e produce buona parte dell'energia consumata in Ucraina. Questo era un altro momento revival. Poi prima dicevamo che non soltanto sui fiumi vengono costruite delle dighe, ma bensì anche in altri, super interessante, anche in altri contesti, diciamo, che è quando viene costruita una diga per togliere al mare una parte di territorio. Sono le più famose sono quelle dell'Olanda. Queste dighe gigantesche in Olanda che diciamo hanno dato molta più terra ai polder olandesi, quindi ai campi olandesi, e sono, diciamo, funzionano tramite un complicatissimo sistema di piene, cioè chiuse, che regolano il corso dell'acqua, e appunto hanno tolto. Addirittura c'è una provincia intera dell'Olanda che è sotto il livello del mare grazie a questa diga. Pensa che storia. Sì, diciamo, poi abbiamo dei meno felici esempi anche in Italia, ma di questa cosa ma ne parleremo appunto magari nel prossimo spezzone. Sì, comunque questa cosa dell'Olanda è molto interessante perché peraltro probabilmente viene fatta anche in altri paesi questa reclamazione del suolo però diciamo le più famose sono appunto in Olanda, che non per niente si chiama Paesi Bassi proprio perché sono sotto il livello del mare. Anche in Italia a quanto pare viene fatto forse questa, guarda, non vorrei dire, ma la famosa bonifica dell'Agro Pontino potrebbe essere stata fatta grazie anche a delle dighe che bloccavano l'ingresso dell'acqua salata dal mare. Non lo so, magari sto dicendo delle puttanate. Neanche può essere. Sì, può essere. E quindi è comunque interessante questa dell'Olanda, perché appunto, costruendo queste dighe, sbarrano il mare, poi con delle pompe svuotano di acqua tutto questo territorio, che comunque una delle controversie invece di questo tipo di diga è che tu hai bisogno di un sacco di energia costantemente per tirare via l'acqua da queste zone, perché l'acqua permea dal suolo, e quindi tu devi continuamente avere delle pompe attive che tirino via l'acqua da queste zone. E anche questo è interessante, perché le prime di queste dighe sono state costruite tantissimo tempo fa, nel 1600 in Olanda, e queste pompe erano azionate dai mulini a vento, quindi usavano l'energia eolica per regolare questo livello di acqua e ributtarla dall'altra parte. Vabbè, comunque interessante questa roba qua. Allora Dave, io ti direi, mandiamo il secondo estratto di Mario Molotov Saga, che è un altro featuring, e questa volta col buon Siddy. Rispetto alla canzone di prima, che era più funkettona, questa invece è una trappata, e si chiama Senza un piano di riserva. Ce la sentiamo e poi ci rivediamo, anzi ci risentiamo qui su Pillole di Ecologia. Che ne dici? Esatto, ci sta. Dai, e ci sentiamo Senza un piano di riserva. Bella. E torniamo qua. E hey, yo. Esatto. Yeah. RCP. Giudico musica, l'unica attività ludica che porta all'unità. Stupido non è chi dubita, ma chi comunica sempre che non lo fa. Il nome è Cesa One, non è una novità. Antifa super rap, RCP lo fa. C'è chi nei testi non dice mai niente perché è concentrato sul flow. C'è chi ha concetti profondi ma quando li rappa ogni volta fa un flop. C'è chi sta roba la studia da un tot, non è mai soddisfatto. C'è chi sarebbe un talento ma è sempre strafatto e non combina un cazzo. Sento babbioni che parlano troppo e soltanto per vanità. Militanti sentirselo un sacco ma sono soltanto qua qua qua. Parlano a chi lo sa, soli su un'isola. Intorno burrasca nel mondo reale la gente tira a campà. Cresciuto nell'era mass media, rimpiango i partiti di massa. Ci aspetta un futuro tragedia, io canto da un sacco ma non mi passa. Non sto mai fermo, le mani in pasta, salto di palo in frasca. Cerco il mio posto nel mondo, ma hai avuto la verità in tasca. Salto di palo in frasca, cambia il palinsesto con un palo in tasca. Il mio frale incastona, mica l'incastra. Mica come te che ti cali e basta. Frate a canna ti mano metto, sulla spalla un diavoletto. Una canna sul divano letto, musica a palla quando vado a letto. Lento piano frate, la tiro su come Renzo piano. La mente le dà, gente con un certo grano. Mentre tu ti butti giù dal terzo piano qua. Scendo piano a piano terra, senza un piano di riserva. Ma la mano piena d'erba, ma la vita quella bella. Tu chiedi cibi di merda, ti fumi il CBD al posto dell'erba. Noi segnali di fumi in caverna, con i tuoi compari stai chiuso in caserma. Ho il piede in due scarpe, sono entrambe Nike, calzini sfagliati. La gente di zona non sa stare in fila, per questo si infila in casini sbagliati. Dai palazzi del quartiere ai palazzi del potere, coi ragazzi di quartiere puoi levarti per piacere. Io non rimo per piacere agli altri, rimo per levarmi da cazzo e storie. Dai non fare cattivone, se fai pace col cervello datti il Nobel. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Siamo i rap che non compri con Amazon Prime. L'Amazon Tribe, Siddy con Cesa con me il mito slime. Il Soviet del line. come Racing Crime. Facciamo la lotta però senza club, senza fight. Sappiamo di rhymes, ci piace basta, però quelle buone non bastano mai. Ci corichiamo con il sole alto, ci attiviamo con le doppie manso. Ci corridiamo però mai dell'altro, piangiamo a volte però resta un vanto. Vai tra proce con il muschio, rei, fumo kosher, dico ehi ehi. Certe volte penso ai cazzi miei, però rimango in lotta come Cassius Clay. Qua non si cede un CM, non si crede al PM. Non ascolto TG o GR, sintonizzo Radio ZM. L'MLM però fermo mai come Giuseppone nel terzo Reich. RC formato pande mai, ti portiamo storie pure senza like. Se già ci conosci ci capirai, non spingiamo merda tipo i capirai. Se non ci conosci siamo tipo in braille, non ti riconosco come il copyright. E oh, rieccoci qua, Radio ZM, pillole di ecologia. Stiamo parlando di dighe. Bella, raga. E abbiamo parlato di dighe che bloccano l'acqua del mare, e abbiamo un triste esempio anche in Italia di questa cosa. Non è l'Agro Pontino di Memore, diciamo, una delle cose per cui si vantano i nostalgici, diciamo, ma è il Mose. Quindi esatto, nel nord-est, nel profondo nord-est. Ah, diciamo, il Mose ha come proposito quello di bloccare le inondazioni e quindi la conseguente acqua alta a Venezia, attraverso appunto uno sbarramento della laguna di Venezia. Esatto. Perché è sfortunato e, diciamo, nefasto questo esempio? Perché, incredibile ma vero, è stata costruita al contrario questa diga. Cioè, questa è una cosa veramente agghiacciante. Cosa vuol dire al contrario? Cerco di spiegarmi soltanto a voce, senza usare le mani per fare... la diga, diciamo, si può semplificare come una diagonale. La diagonale che va verso l'alto, in Olanda l'hanno costruita, che va verso l'alto guardando il mare. Quindi la parte sotto la diga è riempita dall'acqua del mare, che, diciamo, tiene su per la maggior parte il peso della diga. In Italia è stata costruita al contrario, per cui la parte sotto la diagonale della diga è quella senza acqua. E quindi ci sono dei pilastroni, certo, che tengono su la diga e devono sorreggere il peso dell'Adriatico, praticamente. E questo fa sì perché il mare poggia sulla diga e quindi la schiaccia. Esattamente, questo è il motivo per cui molto spesso non funziona, oppure se viene azionata troppo in ritardo non riesce a chiudersi, perché c'è appunto il peso del mare che la blocca, o comunque ha bisogno di una manutenzione esagerata, perché è inevitabile che più peso deve sostenere una struttura, più quella struttura avrà bisogno di manutenzione. Certo. Vabbè, diciamo che magici. Peraltro il costo di questo a parte che ci sono voluti, è stata la prima volta idea pensata nel 1980 questa diga, e quindi 40 anni ci hanno messo a farla. Sì, vabbè, sì, diciamo progetto colossale. Sì, diciamo che non è proprio una delle cose per cui i veneti possono andare fieri della loro regione, questa cosa. È una delle tante grandi opere, non solo inutili ma anche dannose, che nel nostro paese sono state costruite e sono in costruzione o in progetto. Esatto, nell'entusiasmo dei politici. Esatto. Peraltro una cosa che secondo me è divertente dire, che era un progetto così grosso che venne soprannominato il progettone, e così tante persone sono state coinvolte in questo progetto che il comitato, appunto, di questo progetto venne chiamato il comitatone. Esatto. E quindi è tutto una grande fanfara, il comitat one del Mose. E vabbè, questo è. Cosa possiamo dire? All'inizio della puntata dicevamo che il nord Italia è disseminato di dighe, cioè tantissime valli alpine vedono delle dighe che appunto producono energia elettrica e hanno creato dei laghi. Se, mi ricordo una gita che avevamo fatto in Val di Scalve, dove c'è una di queste dighe, che è effettivamente figo da vedere, eh. Cioè tu fai tutto il sentiero e a un certo punto ti si staglia davanti questa roba gigantesca. In realtà sì. Anche, no, ma ce n'è tanti di posti. Sì, anche nel sud Italia ci sono tantissime dighe. Lì principalmente è per riserva idrica. Certo. Cioè, tanti, ad esempio in Basilicata ce ne sono tante e tanta anche dell'acqua potabile arriva da lì. Però comunque per esempio in tutte le robe bergamasche ce ne sono parecchie di dighe. Tra l'altro mi sento di consigliare una gita. Se si parte dal paese di Valgoglio, cioè il punto di partenza di diversi sentieri è proprio una centrale elettrica, la centrale Enel di Aviasco, e qui è il punto di arrivo di questi mega tubazzoni che arrivano dalla montagna, e ci sono dei sentieri che portano in cima a questo altipiano dove ci sono tanti laghi, e c'è il rifugio dei Laghi Gemelli, un rifugio del, del Lago Nero, rifugio Lago Nero, okay, che è molto bello e consiglio a tutti di visitare, una zona molto bella e floristica, cioè dal punto di vista della flora è spettacolare, in particolare la Valle Sanguigno, però è un giro abbastanza tosto, quindi no, non prendere sotto gamba, ce n'è anche fino a tardi, fino a aprile, maggio. Diciamo che anche la costruzione di dighe diciamo più tradizionali, quindi quelle sui fiumi, in Italia non è stata esente da disastri e tragedie, il più famoso dei quali è il Vajont. Esatto, dove il disastro del Vajont. Sì, dove a differenza del Mose non è la diga essere stata costruita male, ma è diciamo la connessione tra la diga e il territorio dove è stata costruita che non è stata tenuta in considerazione, anzi dolosamente non è stata tenuta in considerazione, perché tutti i principali geologi che sono stati chiamati in causa gli avevano detto evitate di farlo perché il terreno frana in quella zona. Esatto, quindi c'è proprio una colpevolezza criminale e... Sì. E maledetta da parte del comitato che sì, e che dopo decenni linea, di processi, i colpevoli, che sono stati dichiarati colpevoli, hanno fatto tra i 5 e i 10 anni di carcere, ma sono morte pochissimo, tipo più di 2000 persone. Pazzesco. Cioè, com'è andata la storia del Vajont? È franato un pezzo di montagna dentro il lago che si è creato sopra a monte della diga, che ha creato uno tsunami che ha oltrepassato la diga, e quindi c'è stata questa ondata di acqua, fango e che ha raso al suolo due paesi totalmente. Pazzesco. Esatto, nel senso erano tutti gasati perché appunto c'era questa valle, hanno detto facciamo la diga, e quando l'hanno fatta, quando l'hanno costruita, era una delle dighe più grosse del mondo, infatti alta 260 metri, che è tantissimo. E poi gli ingegneri appunto se la tiravano un sacco perché questa diga doveva essere indistruttibile, progettata benissimo, così il fatto è che appunto non hanno tenuto conto della geologia della zona, e anzi non è che non ne hanno tenuto conto, l'hanno deliberatamente ignorata. Sì. E quindi cioè, una cosa criminale e schifosa. Una cosa come quelli che sono i forchettoni nei freni della appunto in una scala ovviamente molto maggiore, perché ha coinvolto migliaia di persone invece che è stata una cosa pesa questa qua, oggettivamente è stato un disastro esagerato, e hanno fatto un film molto bello in cui si racconta questa cosa. Consiglio tantissimo uno spettacolo teatrale, cioè un monologo dell'attore Paolini, che è interessante perché è stato fatto nei luoghi, cioè nei paesi in prossimità, dove diciamo sono andati a vivere i pochi sopravvissuti al disastro, e è interessante da un punto di vista diciamo chiamiamo della storia della psicoterapia in Italia, perché in quello spettacolo, cioè a seguito di quello spettacolo, tantissime persone hanno, diciamo, potuto rivivere il trauma e è stato proprio una cosa un po' catartica che poi ha dato il via per tante persone a un percorso di psicoterapia per elaborare quel trauma che appunto in tantissimi casi è stato un po' rimosso dalle persone e non affrontato. E vabbè, questo è esatto. Interessante. Consiglio la visione di questo spettacolo. Un altro consiglio può essere questo libro che si chiama La storia del Vajont, raccontata dal geologo che ha scoperto la frana, perché questa massa di terra che poi si è scaricata nel lago del Vajont era già in movimento e fu scoperta più di 4 anni prima che succedesse il disastro, da questo geologo Edoardo Semenza, che poi ha scritto questo libro dove parla di tutta questa cosa. E la cosa più assurda è che è il figlio dell'ingegnere che ha progettato la diga. Pazzesco. Io non ho parole per commentarlo. Alla fine i geologi hanno fatto il loro lavoro di dire che c'era questa frana, gli ingegneri hanno fatto il loro lavoro di costruire una buona diga, però quando lasci queste decisioni in mano ad amministratori che non sanno un cazzo di niente, come appunto quelli che appunto non hanno avuto quasi conseguenze delle loro scelte, io non riesco proprio a commentare il fatto che, cioè, solo odio mi viene da dire. Sì. Appunto ti chiedo, Dave, tu che sei informato, ci sono stati altri disastri legati a delle dighe in Italia oltre a questo famoso del Vajont? Sì, un altro disastro importante è quello del Gleno, okay. Che è quest'altra diga che si trova, aspetta che devo un attimo trovare un po' di informazioni, è una diga che si trova in Val di Scalve, anche questa. Ci troviamo sempre nelle Orobie, vicino anche a Milano. E questa diga non è come la diga del Vajont che è crollata la montagna, questa è crollata proprio la diga. Perché, che problema aveva? Semplicemente era stata progettata male. Ok, semplicemente. Quindi era stata progettata, esatto, semplicemente, mica costruisce una diga e la progetti male, è una cosa questa assurda. Però appunto l'hanno costruita, hanno iniziato a riempire il lago, poi ci sono state forti piogge, quello che uno si inventa come scusa, e la diga è crollata e ha distrutto nei diversi paesi. E ad oggi si può ancora visitare, cioè la diga è ancora lì, semplicemente c'è un buco e il fiume ci passa in mezzo. E consiglio anche di visitare anche questa zona, che ovviamente è una zona bellissima perché sì, appunto nell'alta Val di Scalve, montagne bellissime, e hai questo muro spaccato dal fiume, un po' secondo come il fosso di Elm, più o meno. Sì, esatto, come si dice, è un'esperienza che secondo me ci sta a fare. Io vorrei andarci, ancora non ci sono stato, però dai Dave, facciamolo, insomma, come deve fare una certa impressione. Facciamolo come proposito per la prossima volta che tornerai in Italia, andiamo insieme a fare questa gita in Val di Scalve a vedere la diga del Gleno. Anzi, invitiamo gli interessati, le interessate, quando sarà, a unirsi a questa scampagnata. Esatto. Le vacanze di Radio ZM. No, questa è una puttanata. Sembra un po' tipo le vacanze di Radio Popolare, ma più belle, sostanzialmente. Che dire? Questo è quanto. Invece ci sono tantissime altre dighe che appunto invece, grazie a Dio, sono rimaste su e non hanno causato problemi. Esatto. E anzi, qualche anno fa, adesso non ricordo precisamente l'anno, ma non tanti anni fa, c'è stata un'estate torrida con pochissima pioggia, dove tantissimi laghi, tipo il Lago Maggiore, ha raggiunto il record di livello basso di acqua mai registrato. in quel periodo il, diciamo, l'apertura delle dighe, delle varie dighe lungo le Alpi ha permesso alla pianura padana di avere comunque i campi irrigati e quindi limitare i danni del caldo torrido. Quindi, diciamo, esatto, ci salvano un po' il culo adesso. Sì, sì, quindi, fatto... come dire, come tutte le cose, diciamo, gli interventi umani che gli umani fanno per migliorare il proprio benessere o far funzionare le proprie società, anche quelle che hanno i vantaggi più strabilianti hanno comunque sempre delle, come dire, degli effetti collaterali. Cioè vale, esatto, per quando... i pannelli solari, che per produrli servono dei materiali che per estrarli dalle miniere, dalle cave, si sfruttano un sacco di persone che ci lavorano, piuttosto che si creano dei disastri ambientali in loco dove vengono estratti, ma poi permettono di avere energia tra virgolette pulita. Questo non per fare polemichetta sterile, ma insomma per una riflessione di dire: non tutto è oro quel che luccica, e sicuramente alla lunga è meglio avere dei pannelli solari o una diga rispetto a estinguere tutti i giacimenti di petrolio del mondo e immettere tantissima CO2 in atmosfera, però non è esente da rischi. Esatto, anche questo appunto ha delle conseguenze non indifferenti. Sì. Ed è importante esserne consapevoli. Esatto. Ecco. Quindi, come dire, i soliti discorsi che già abbiamo fatto anche qui durante questa trasmissione, non è che cambiando fonte di energia si può rimanere con lo stesso stile di vita e stile di consumo energetico di ora, ma anzi, cioè bisogna, la soluzione è, come dire, consumare meno, consumare tutti, mettiamola così. Poi io sono l'ultimo, sì, stronzo. Consumare meno soprattutto. Sì. Io poi sono l'ultimo stronzo che non ne capisce sostanzialmente un cazzo di questioni tecniche, ingegneristiche o energetiche, però insomma una riflessione ci sta. Sì. Dave, anche questa puntata mi è piaciuta molto, nonostante in questa stanza ora come ora ci siano 50 gradi, non ho idea della temperatura fuori, ma qui è veramente aggressiva. Sto trasmettendo direttamente da Calcutta. No, sì, molto interessante, appunto è un argomento, appunto, che essendo così pieno di controversie si presta a discussioni molto... molto interessanti. Appunto, invitiamo anche tutti gli ascoltatori a iniziare una discussione a cena, a tavola, adesso, e sentire l'opinione. Ci auguriamo che si creino dei simposi in giro per i luoghi di ascolto, esatto, di Radio ZM, per, quindi in giro per tutto il mondo. Bravissimo. Per insomma, discutere e conversare dei pro e dei contro dell'energia pulita. Esatto. Con questo possiamo salutare chi ci sta ascoltando mandando l'ultimo estratto di Mario Molotov Saga, il nostro tecnico di Stronzify, che non è nient'altro che Gigi Proiettili, che salutiamo, che probabilmente ci sta ascoltando dal piano di sotto. Abbiamo fatto un nuovo tentativo di caricamento del progetto, dovrebbe uscire il 3 di luglio, sempre alle 13:12. Incrociamo tutte le dita che riusciamo a incrociare contemporaneamente per un buon auspicio a questa uscita. E il pezzo si chiama Fottadura, non ha nessun feat al suo interno. Interessante di questo pezzo che è stata campionata, scusa, la colonna sonora, anzi la sigla del telegiornale della Repubblica Socialista Rumena degli anni 70. Wow. E quindi i suoni che sentirete arrivano proprio da lì. Che perla. Questa è, sì, una chicca niente male. E niente, ce la sentiamo, poi mandiamo direttamente la nostra sigla di chiusura, che è Greta Thunberg di Marrakesh, e diamo appuntamento magari direttamente a settembre, dove faremo magari una puntata potenziata, chi lo sa, abbiamo 2 mesi di, esatto, vediamo, di tempo per progettarla bene. E niente, pausa estiva, ok, non lo sapevo. No, no, ci sta, è una proposta che faccio, però sì, sì. Più che altro non riesco a garantire la mia presenza l'ultima settimana di luglio. Esatto, idem. Quindi chi lo sa. Oh, quindi, poi invece nel caso fossimo infottati, riceverete tutte le comunicazioni del caso su Telegram, sul canale Telegram Radio ZM, sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram, insomma, dove già trovate tutto quanto c'è da trovare di Radio ZM. Esatto. Quindi ci giorno magari anche la gita alla diga, bravissimo, del Tlene. Bravissimo. Quindi ci diamo appuntamento a un'ipotetica data nel futuro e ci sentiamo Fottadura e poi Greta Thunberg in sequenza diretta. Bomba. E io. Bella raga. Bella. Ciao a tutti. Io. Noi chiamiamo Fottadura ciò che chiamano hype. Niente paglia, metto il gremo sopra cannabis light. Tutti sempre online, living covid by night. Suona ancora boom bap pure nell'era del grind. Facciamo barre su barre finché le barre ci fanno. Odio pieno come il danno contro ciò che ci danno. Ogni re sullo scranno, quando posso lo scano. Come Bresci Gaetano mirando bene al tiranno. Diranno tutto il contrario, non gli credere mai. Se l'ha detto uno sbirro è una menzogna e lo sai. Il dialogo ha senso solo tra teste pensanti. Se ti ignorano non ha senso fare proteste pesanti. Mescolati tra i passanti, senza santi né capi. Senza flow complicati né strani copricapi. Lo stesso flusso di sempre come nei tempi passati. Oggi fondo due culture tipo arrosto teriyaki. Di cosa parlano ste barre, bro, non chiederlo. Sono ponti sopra il baratro dei giorni che procedono. Superato già da un po' il quarto di secolo. Certe cose si conquistano, non le concedono. Di cosa parlano ste barre, bro, non chiederlo. Sono ponti sopra il baratro dei giorni che procedono. Superato già da un po' il quarto di secolo. Certe cose si conquistano, non le concedono. Sto con mille cose in testa, c'è una voce che mi parla. Mi tiene compagnia, penso che è meglio ascoltarla. Dice prenditi del tempo, non andare via. Sento storie di chiunque per conoscere la mente mia. Ricordo colle per la benza per andare ai live. Noi da un pezzo Fottadura, mo si dice hype. Sta cultura è come l'acqua, non ha forma propria. Di sete spacca pietre, se la schiacci scoppia. Niente in dolce, sempre tutto in forse. Non ho risposte, solo occhi sopra borse. Davanti a facce toste che non si fanno domande, ma che si danno manforte in maniera imbarazzante. Tu guarda e passa, se no si scazza e basta. Non è che schiacci un tasto e la gente cambia pasta. Un ventaglio di buone intenzioni non è sufficiente, ma un ritaglio per le barre lo si trova sempre. Animalista, animalier, animal house. Dormo sotto le stelle tipo scout. Si è estinto il koala prima che io ne assaggiassi uno. Tu ti estinguerai prima di aver estinto il mutuo. Ehi, hey, dall'ultima festa in un buco.